telefono fisso, lo fai un cellulare. Sì, ma infatti internet io lo uso più col cellulare che col coso, che col computer. Il computer lo uso poco. Chi vuole entrare? Buonasera, fai come facevo io, sono tre cinesi, si è preso l'antenna, la pennetta wifi, il primo segnale che è aperto, per prendere voi entriamo gratis, dove era l'albergo, il comune, quello che era, anzi via al monte ci dovrebbe essere il segnale aperto vicino a Lucca. Pirata, sì, e sei anche poppomane. Ce l'arresto perché fa l'usuraio. Allora, è un poppomane pirata questo Zunzuni. Ah no, però ti credi che io uso il wifi a casa, già è agganciato di fronte a casa dove c'è quello che c'è, i videogiochi. Entro lì e mi guardo tutto quello che voglio. Perché lascia libero, non emette chiave? No, non emette. C'è anche addirittura all'hotel Carlo Felice la stessa cosa, solo che lì quello devo puntare l'antenna verso il basso. Perché nei piani c'è il lato wifi, quello per le camere, hai capito? Quindi lì devi pagare, in pratica ti devono dare la password, invece giù al piano terra c'è l'altro wifi, ce ne sono due di segnali, l'altro è libero. Ho capito, uno è per i clienti e uno per loro, sì. Vabbè. Perché non c'era Giacomo, ma purtroppo è successo che praticamente questa signora aveva visto che la sera si metteva sempre una macchina sotto la sua finestra, perché abitava al primo piano, e stavano col computer, ha chiamato i carabinieri, i castellani bizzigardi, perché si usufruivano del segnale di quella lì. Sì, vabbè, che c'è, questo è... Io cioè, mica mi metto in macchina, no, o in moto, sto casa degli altri, no? Quando siamo ai livelli dei CB, cazzo, quando c'era qualche ragazza, no? Io ho quell'antenna che vendono i cinesi, la piazza sto perfetto, mi faccio un giro di come si chiama, di segnali, dove è aperto, prendo e punto lì e basta. Dopodiché non dice niente nessuno. Ma quello facevano per avere il segnale più forte. Uno se è esperto di computer, anche se ce l'ha chiave, entra. Cosa cazzo vuoi? Se sai usare Linux, media la cracchi la rete e se la usi. E vabbè, ma sono tutti esperti. Ehi, vabbè. Infatti sono convinto che sei un libro più. Chi mi sta rompendo le palle, no? Tu è perché hai imparato un altro modello a fare queste cose. Si fa un giro in macchina dove sono le scuole, hai capito? Lì via San Donato. Si mette lì. Cosa? Io lo cracco da qua. La prima rete cacciato deve entrare dentro e via. No, io non c'ho bisogno di craccare nulla, già ci sono i segnali. Mi aveva fatto a me un'antenna Adriano, aveva preso una latina di olio cuore, questo me lo ricordo sempre. Ha fatto un'antenna, ha fatto e la puntava a Ussi, cazzo, ogni segnalone, tutti appesi erano. E dicevo, mi segnava da lì, allora c'erano quelle... di quei computer, di quelli grandi, no? Che ci siamo una volta quelli di base. Tra un giorno, cazzo, non so cosa gli è successo al computer, cazzo, mi dava la 220, mi dava, cazzo. Come toccavo la finestra, mi dava la scossa. Ho preso, ho stacciato tutto, aiuto a far culo, computer e quanto era, ci ho buttato tutto. E l'antenna l'avevo regalata a coso, a Stefano l'ho regalata quell'antenna lì. Perché lui aveva comprato una di quelle grandi da installare in casa, solo che col computer che c'aveva lui non andava bene, non si poteva installare, capito? E una di quelle cubiche doppie era, quelle antenne lì, sai, dice. Solo che non andava bene nel computer che c'aveva Stefano, perché lui c'aveva Windows 8.10, mi sembra. e ci parlava, mi sembra, Windows 7, non mi ricordo bene, quindi quell'antenna lì e tutta la partita che aveva comprato non serviva a nulla, in teoria non te ne facevi nulla, capito? Un pezzo di rame, io mi faccio l'antenna, una cubica doppia a due elementi e vedrai l'ubbidio lusignati. E anche il cellulare si può fare per questo, se guardi su YouTube basta una di quelle prese di telefonino, non mi ricordo adesso cosa devi fargli, una specie di bobina sopra e ti fa da amplificatore wifi e prendi i segnali i più deboli che ci sono, eccetera eccetera, ma capite? Gli altri sarebbe cosa prendi, sei a piano terra tu, se fossi stato vicino a San Donato allora sì, lì ci sono le scuole elementari, l'avete pigliato in pieno il segnale. Vabbè, fatta legge, ti ho fatto l'inganno di Ziaghi solo. Esatto, sì, e tu vuoi qualcosa, un segnale aperto prendi e entri tranquillamente dentro. Io già te lo ricordo, usavo il wifi dell'hotel Cano Felice con l'antenino piccolino, figurati quello che vendevano lì i cinesi. Adesso poi avevo comprato la direttiva e avevo installato la direttiva dall'altra parte, ma un treno era, sì, fondo scalo del segnale, altro che essere dentro era. E usavo il computer, dopodiché non sto pensando più niente ormai, uso il telefonino, se voglio, bastava che mi mettevo vicino a cosa, a Sonia, c'è il palazzo di fronte e ci sono tutti i segnali aperti lì. Io ne dovrei avere una in campagna di quelle antenne lì, l'avevo messo dentro un contenitore di plastica, una di quelle cubiche, cazzo, ed è direzionale, dove la punti, cazzo, cavoli, acidi. Alle 7. Allora io ho proprio la direttiva, quella che avevo comprato dai cinesi, avanti di ciucucciucchi, avanti, avanti, entra. No. Aiuto, siete solo io, fischi. Non è tale, cosa vuoi dire? Avanti già. Quindi vabbè, dai. Io sto per andarmene perché devo scendere giù col cane e poi devo fare roba. Dai, ci sentiamo, sto in ascolto. Un paio di minuti e poi chiudo. Meglio che ciao Gianni, ci sentiamo allora, buona passeggiata col cane e tutto. A sentirci alle prossime. Ciao ciao Natalino, ciao anche a Antonello. Ah, Talino, sono gli sbratti degli americani, 9:25, canale dovrebbe essere questo 10, l'11. Vabbè Antone, io devo cenare, dai, ci sentiamo alle prossime, ciao. Ciao Natalia, ci sentiamo, dai, non c'è problema, io dopo esco, intanto devo uscire alle 7. Ordinami la pinza, me la porto a casa e poi me la magno. Sì, ciao ciao Antone, ciao anche a te già, alle prossime. A curire. A codire il culto, beh, fra, in campagna sei, cosa stai cucinando? Tagliando l'erba, io non mi sono andato a tagliare l'erba, fammi la stampata, non credo proprio che ci va. In campagna, in di basso, il ponte non c'è più, quindi cosa, l'altra parte è come metterci i piedi, chissà dove, se sbagli poco a poco ci scendi dentro al fiume e ti recuperano qualcosa, col traliccio. Attenzione, ehi, ciao Tony. Come ti arriva il radio? No, 9.15, 9.20. La radio mi interessa. 5 a bomba. K. A grigio, pepe. Bravo. Bella giornata oggi, Ehi, vabbè, bene Franco, finisci pure lì, non c'è problema. Andrà bene, è una bella giornata stasera, meno quella. A parte c'è un pochino di vento, ma quella stamattina ha calato. Ah, io ero da stamattina posata, è vero un bel vento, ma un bel. Sarà entrato il giorno, sarà mezz'ora fa. No, io sono salito ieri sopra il tetto e ne ho staccato la direttiva, quella della UHF, quella pesante in acciaio, e mi sono rinforzato tutti i tiranti, ho aperto il sistema e almeno sono più sicuro, dormo tranquillo la notte, non vorrei che col vento oltre 100 km mi trovo il palo in terra e la manto va giù che mi tocca recuperare i pizzi. No, poi il vento qua giù non ce n'è, il vento l'ho trovato solo fuori stamattina. Ehi, l'altra volta, mamma mia, ho lasciato, guarda, là, perché dovevo fare, cioè il buco del, ho fatto del muro che era stretto, ci passavano solo 3 cavi di 1258, per passare i livelli di 213 ho dovuto comprare la punta da 16, ho fatto il foro, ci ho passato quello e anche le 1258 adesso. Almeno posso chiudere la finestra, ma abbiamo un freddo, se no un vento l'altra volta, mamma mia, cominciava tutta la notte, ma non ho dormito nulla da quel cazzo di rumore. Ho preso, ho fatto, ho detto vado, mi prendo la punta, l'ho comprata a 4,50 dai cinesi, quelli che ci sono vicini, Tecnomat. L'ho preso lì, ho fatto il foro da 16 e ci ho infilato tutti i capi. Dopo che ho attaccato l'antenna quella grossa della UHF che non me ne faccio niente, è pesante. E ho lasciato solo la mantova dove è installata e basta. Poi adesso vediamo un po'. Gira nello stacco la mantova turbo e cambio antenna, mi ordino un'antenna nuova, molto ma molto più leggera, no? Non voglio più antenne cazzo così pesanti da 3-4 kg, più il palo in ferro, non saranno, sarà spaventato la notte, no? Direttamente un'antenna leggera tipo BA27L che venga 1000 watt, quello che è. O se non è BA27L sarà, non so, la Grazioni, non so quanto pesa, boh, se pesa 1,5 kg o 2 kg, boh. Giustamente hai fatto bene a fare il buco, mica puoi lasciare la finestra aperta, non sto scherzando, io ho fatto la stessa cosa, quindi la finestra non è sempre chiusa, non c'è problema. Andrà bene, ma non ho capito se non è provocazione quello che sento la portantina, sede c'è uno che ha un, come si dice, un microfono di quelli che gli va la voce camuffata, diciamo, là. È un giorno che non si usa più quel tipo di cosa, a meno che non sia un mixer, quello che è. Ehi, ma in basso è segnale, capito? Lo so che è basso, infatti gli parlano sopra quello. Quando può entrare come si deve, potrà entrare. Io così non lo sento, sento a te, sento agli altri e lui proprio segnale 7. Quindi tu arrivi 9.10, tutti gli altri arrivano oltre 9, 9.10. Lo sentono basso, quindi se vuole parlare che parli non ammette, se no parlerà col muro. Beh, preso per lui. No, se mi avete leggermente il segnale, Antonè. Allora, ci va bene, ci va bene. adesso sei 9 e 20, hai aumentato la potenza, prima eri mezzo watt, adesso sei 10. Oh, adesso no, adesso è facile però. Dovete diminuire un pochettino, scendi a 5, 6, va bene, anche 10. Guarda un po', adesso sono proprio pio, a un quarto dai, diciamo. Adesso va bene, vedi, il segnale è perfetto, è a posto. Due, fai un bambarotto, gambo, bacio, abbia luce, faccio un marito. Chiuso, manco lo sento, mi attore. Beh, tu sei campagna. Non grido. Io sono qua in città. Che bella giornata oggi, va. Oggi è bella andare a Trattamona, a Coso. Fa una bella passeggiata al mare, se non c'è stato un vento, guarda. Bello, andare lì a Trattamona, l'anno scorso sono andato, era mi sembra mese di marzo, aprile era, marzo mi sembra che era, cioè, con Simona dovevamo fare un esame lì a Trattamona, ma c'era questo mare piatto, c'era anche caldo, c'erano 15-16 gradi, mi sono seduto lì al bar, mi sono bevuto la birra, un fascia sembrava in quella... in quel bar che c'è, l'ultimo bar prima per andare a Palottore. Ti ho bevuto una bella birra, non è che ti ho messo, bevuto un bel bicchiere di acqua. Io bevo la sera sempre la birra fresca, me la sono bevuta piano piano, con calma, e poi quando è arrivata Giovanna a prendermi, che è arrivata dopo quasi un tre quarti d'ora, stava accompagnando la figlia, perché doveva prendere la patente per l'auto, e poi infatti già l'ha presa dopo due mesi, e quindi abbiamo bevuto una cosa insieme tutti e tre, abbiamo avuto una tabella tutti e tre, quindi ma si stava benissimo, c'era 16 gradi, guarda, ti giuro, guarda, se avevo avuto una canna da pesca col mare olio com'era, era stato un pascià, era stato, guarda, mi sono fatto le fotografie, mi sono fatto di com'era il mare quel giorno, ma veramente non c'era manco un cane, c'eravamo solo noi, quella del bar e un paio di persone, boh, ma si stava benissimo, seduti fuori al tavolino. Non do bene, vabbè. Niente, io mi sono stancato, ne avvia a giocare. 145 km. 145 sono 290 km che ho fatto in tutto. Vabbè, mi sarei posato, mangiato lì, quindi. Però viaggio lungo. Poi casino che non è tutta strada bella, perché ci sono interruzioni, varchi chiusi, varchi aperti, è un casino. Non è ancora finita quella strada, capito, che va fino a Olbia. Poi prendi la 131 bis e poi fino a Nuora, vai, infatti dopo Budone, arrivi a Fossata. Quella è bellissima la strada. Il problema è se capita, ma che ci sono problemi, come è detto di solito, una settimana sì, una settimana no, lì alle gallerie che ci sono qui all'ingresso di Sassarimi, che ogni tanto o si capotta uno, non so, succede un incidente. Ma quando l'hanno riparata quella galleria, prima incidenti non succedevano quasi mai, adesso è all'ordine del mese, uno al mese ce n'è l'incidente. Vabbè, stanno aggiustando anche quella di galleria. Non è fatto la minori che sono su quanto tempo. Cioè, quando fare quella lunga e l'altra a fianco, che è lunga lo stesso, e l'altra piccolina, io penso fra 15 anni mi riesce a farla. Sono già 2-3 anni così con la minorita, cara. Ma è pericolosa così quella galleria. Dovevo lasciarle chiuse e basta. Inutile lasciarle aperte, doppio senso, cose del genere. logico che uno quando si trova quando la macchina si trova, cioè un cambio si trova qualcuno che non so quanto lui va a saltare, si capozza con sabbia e tutto, come è successo due settimane fa. Quindi adesso è l'ordine del giorno, una volta al mese c'è sempre un incidente, o l'ingresso o l'uscita della, di quella galleria lì, della piccola. Capito? Dovevano chiudere e basta. Falle subito i lavori e lasciarla chiusa tanto per dire un mese, lasci chiuso un mese, fai i lavori, boh, basta, una volta che i lavori sono fatti, prendi e riapri, non è che puoi aprire doppio senso. Come passavano prima i camion, passano anche adesso nella scala dei giocattoli, ci passavano le pullman, quindi non vedo che problemi ci siano. Il problema è che faranno magari questa fila di macchine, quello è. Ma a un certo punto se uno si deve ammazzare è meglio che la chiudano quella strada. Non so, però. Oh, yeah. E poi sono dentro galleria, possono fare i lavori, se piove mica si bagnano, ma macchia drogiana, c'è la vita luce. Va bene, dai, Antonio, che io continuo a sistemare un pochettino qui, semmai già ce la sentiamo di nuovo. Ok, ciao, stavi bene, saluto la tua metà. Alle prossimine, ciao ciao. E a ciao Tony, ci sentiamo, stavi bene, tanto oggi. Saluto della parte mia.